Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Era una città allegra, la Londra di quell'epoca, è la pura verità. Ora che scrivo sono vecchio e gottoso, e la gente è diventata enormemente più morale e positiva rispetto alla fine del secolo scorso, quando il mondo era giovane, e io con lui. A quei tempi c'era una bella differenza tra un gentiluomo e un tizio qualunque. Vestivamo di sete e ricami, allora. Ora tutti i gentiluomini hanno lo stesso aspetto da cocchiere, con i loro fazzolettoni al collo e i cappotti con la mantellina, e non c'è più nessuna distinzione visibile tra un milord e il suo domestico. Ma allora, a un uomo elegante occorrevano un paio d'ore per fare la sua toilette, e poteva dar buona prova del suo gusto e della sua genialità nella scelta. Che sfolgorante splendore era un salotto, o un teatro dell'opera, o una serata di gala. Che somme di denaro andavano vinte e perdute al delizioso tavolo del faraone. La mia carrozza dorata, con i lacchè che la precedevano, splendidamente vestiti in verde e oro, era tutt'altra cosa da quelle che vedete oggi nei viali, con i servi rachitici alle calcagna. Un uomo riusciva a bere 4 volte quello che ingoiano questi lattanti del giorno d'oggi. Ma è inutile insistere sull'argomento. I gentiluomini sono belle morti. Ora sono in voga questi vostri soldati, questi marinai, e io divento triste e stizzoso quando ripenso a 30 anni fa. Questo capitolo è interamente dedicato alle reminiscenze di quella che fu per me un'epoca splendida e beata, ma che presenta poco di notevole in fatto di avventure, come sempre accade quando gli anni scorrono facili e sereni. Sarebbe ozioso riempire pagine su pagine con il resoconto degli affari di ogni giorno di un uomo di mondo, le belle signore che gli hanno sorriso, gli abiti che ha indossato, le partite in cui ha giocato, vinto o perduto. In questi giorni i giovanotti sono occupati a tagliare la gola ai francesi in Francia o in Spagna e si nutrono di gallette e manzo della sussistenza. Non potrebbero comprendere la vita che facevano i loro antenati. Perciò tralascerò di dilungarmi sui tempi in cui anche il principe Giorgio IV era un bamboccio tenuto per mano e Buonaparte era un marmocchio cencioso nella sua isola natale. Mentre nelle mie proprietà procedevano i lavori di miglioria e la mia casa, da antico castello normanno, veniva trasformata in un elegante tempio o palazzo greco, e i giardini e i boschi perdevano il loro aspetto rustico per venire risistemati nel più raffinato stile francese, e il mio bambino cresceva sulle ginocchia di sua madre, e la mia influenza nella regione aumentava, non si deve credere che in tutto questo tempo io me ne stessi nel Devonshire, trascurando di visitare Londra e i miei vari possedimenti in Inghilterra e in Irlanda. Mi stabilii per qualche tempo nella proprietà di Tecklewick e presso le miniere di Pewellan, dove trovai, al posto dei profitti, raggiri e cavilli di ogni tipo. Viaggiai in gran pompa fino ai nostri territori d'Irlanda, dove ricevetti i notabili del luogo con tanto stile che neppure il Lord Luogotenente avrebbe saputo uguagliarmi, e la mia raffinatezza diede il tono a Dublino. Dico che la mia raffinatezza detto legge in città, e me ne vien ben poco merito, perché a quei tempi Dublino era proprio un postaccio, che ne dica il partito degli irlandesi. Ve l'ho già descritta in un capitolo precedente. Era la Varsavia della nostra parte del mondo. C'era una nobiltà splendida, ma senza un soldo e semicivilizzata, che dominava su una popolazione semiselvaggia. Dico semiselvaggia a ragion veduta. La gente comune che vedevi nelle strade era animalesca, irsuta, coperta di stracci. Dopo il tramonto, anche i luoghi più frequentati erano poco sicuri. Il collegio, gli edifici pubblici e i palazzi dell'alta società, quest'ultimi generalmente ancora incompleti, erano splendidi, ma il popolo versava in condizioni molto peggiori di qualsiasi altro volgo che io abbia conosciuto. La pratica religiosa era loro permessa solo a metà. Il loro clero era costretto a procurarsi un'istruzione all'estero. La loro aristocrazia si teneva ben distante. C'era anche un'aristocrazia protestante e nelle cittadine le amministrazioni comunali protestanti, povere e arroganti, con il loro codazzo scalcagnato di sindaci, consiglieri e funzionari municipali che figuravano tutti nelle petizioni e avevano pubblica voce nel paese. Ma non c'era simpatia né rapporti di altro tipo tra gli irlandesi dei ceti alti e quelli dei ceti bassi. Per uno come me, che aveva completato la sua educazione vivendo all'estero tanto a lungo, questi contrasti tra cattolici e protestanti erano ancora più sorprendenti. Benché saldo come una roccia nella mia fede, non potevo non ricordare che mio nonno ne aveva avuta una diversa e mi meravigliavo che ci fosse un tale antagonismo politico tra le due. Fra i miei vicini passavo per un pericoloso livellatore, soprattutto per aver invitato il parroco cattolico a pranzare con me a Castle Lindon. Era un vero gentiluomo, aveva studiato a Salamanca e a mio parere era un compagno molto più educato e piacevole del pastore, che nella sua congregazione aveva solo una dozzina di protestanti che, pur essendo naturalmente figlio di un lord, sapeva a malapena compitare una parola. Tutto il suo campo di attività si riduceva al canile e all'arena della lotta dei galli. Non mi preoccupai di ingrandire e abbellire la residenza di Castle Lindon come avevo fatto nelle altre nostre proprietà. Mi bastava visitarla di tanto in tanto, praticandovi un'ospitalità quasi regale e tenendo sempre la porta aperta a tutti durante il mio soggiorno. Quando ero assente, davo il permesso di abitarvi a mia zia, la vedova Brady, e alle sue sei figlie nubili, anche se continuavano a detestarmi. Mia madre preferiva infatti la mia nuova casa padronale di Berryhook. Dato poi che Milord Ballindon ormai era diventato troppo alto e turbolento, decisi di lasciarlo in Irlanda, sotto la sorveglianza di un istitutore adatto, e con Mrs. Brady e le sue sei figlie a prendersi cura di lui. E se, prendendo esempio dal suo patrigno, gli veniva in mente di innamorarsi di tutte quelle vecchie signore, era il benvenuto. Qualora si fosse stufato di Castle Lindon, sua signoria era liberissimo di andare a stabilirsi a casa mia con la mia cara mamma, ma non c'era certo molto amore tra di loro. Credo che per via di mio figlio Brian lei lo odiasse con tutto il cuore, almeno quanto ero riuscito a detestarlo io. Gli interessi parlamentari della casata dei Lindon erano stati grossolanamente trascurati nel periodo in cui mia moglie era ancora minorenne, quando il conte suo padre, essendo infermo, era stato inabilitato ad amministrare i suoi beni. Per essere più precisi, tutti i seggi erano stati sottratti con l'astuzia alla famiglia Lindon, da quella vecchia volpe ipocrita di Tiptoff Castle, che si comportò come fanno la maggior parte dei consanguinei e tutori con i loro pupilli e parenti. Li derubò. Il marchese di Tiptoff mandò quattro membri in Parlamento, due dei quali per il collegio elettorale di Tippleton. Da tempo immemorabile eravamo noi a mandare membri per quel collegio, finché Tiptoff, approfittando della senilità del defunto lord, propose i propri candidati. Quando il suo primogenito raggiunse l'età richiesta, naturalmente spettò al milord di occupare un seggio di Tippleton. E quando morì Rigby, il marchese ritenne opportuno tirare fuori il suo secondo genito, milord George Poynings, che io ho già presentato al lettore in un altro capitolo, e decise dall'alto del suo trono che anche questo figlio dovesse andare a ingrossare le file dell'opposizione, i grossi vecchi Whig con cui il marchese militava. Rigby era stato in cattive condizioni di salute per un certo tempo, prima della sua scomparsa, e potete star sicuri che il suo graduale peggioramento non era passato inosservato agli occhi dei notabili della contea. erano in massima parte fermi sostenitori del governo e avversavano le idee di Lord Tiptoff, ritenendole pericolose e funeste. «Abbiamo cercato in lungo e in largo un uomo che combattesse contro di lui», mi dissero quei piccoli possidenti. «Possiamo tener testa a Tiptoff solo con l'aiuto di Acton Castle. Voi siete il nostro uomo, Mr. Lyndon, e alla prossima elezione della contea ci impegneremo a eleggervi». Odiavo tanto i Tiptoff che mi sarei battuto con loro in qualsiasi elezione. Non solo non ci facevano visita a Acton, ma rifiutavano di accogliere a casa loro chi veniva a trovarci. Proibivano alle donne della contea di ricevere mia moglie. Inventavano una buona metà di quelle assurde storie sulla mia dissolutezza e sui miei sperperi di cui si deliziava il vicinato. Dicevano che avevo costretto con il terrore mia moglie a sposarmi e che lei, ormai, era una donna finita. Insinuavano che sotto il mio tetto la vita di Burlington non fosse al sicuro, che subiva un trattamento odioso e che volevo togliermelo dai piedi per far posto a mio figlio Brian. Non poteva venire un mio amico a trovarmi a Acton senza che quelli contassero le bottiglie bevute sulla nostra tavola. Andavano a ficcare il naso nei miei rapporti con avvocati, amministratori. Se un creditore non veniva pagato, ben presto conoscevano ogni voce del suo conto. Se davo un'occhiata alla figlia di un fittavolo, dicevano che l'avevo rovinata per sempre. Io ho molti difetti, lo confesso, e come capofamiglia non potevo vantarmi di essere particolarmente regolato o temperato. Ma Lady Lyndon e io non litigavamo più di qualsiasi altra coppia di rango. E almeno all'inizio facevamo sempre pace senza difficoltà. Sono un uomo pieno di colpe, certo. Ma non il demonio che quelle odiose linguacce dei Tiptoff davano a credere. Nei primi 3 anni non colpii mai mia moglie, tranne quando avevo bevuto. Quella volta che lanciai un coltello da cucina contro Ballinon, ero ubriaco, come tutti i presenti possono testimoniare. Ma quanto ad avere un qualsiasi piano sistematico contro quel povero ragazzo, posso dichiarare solennemente che al di là dell'odio che io gli portavo, e nessuno può dettar legge alle proprie passioni naturali, non mi si può accusare di avergli fatto alcun male. Avevo dunque motivi sufficienti per essere nemico dei Tiptoff, e non sono uomo da lasciare inerte una passione di questo genere. Il marchese era uno degli uomini più altezzosi del mondo e trattava le persone non titolate come ignobili vassalli che potevano andar fieri di leccargli le fibbie delle scarpe. Quando il sindaco e il consiglio comunale venivano a trovarlo, li riceveva con il cappello in testa e non offriva mai una sedia al signor sindaco, anzi, si ritirava quando venivano portati rinfreschi o li faceva servire agli onorevoli consiglieri nella stanza del maggiordomo. Quei bravi inglesi non si ribellarono mai contro un simile trattamento finché non venni io a esortarli con il mio spirito patriottico. No, a quei cani piaceva essere bistrattati e nel corso di una lunga esperienza ho incontrato ben pochi inglesi che non condividessero questo atteggiamento. Soltanto quando aprii loro gli occhi riconobbero la propria degradazione. Invitai il sindaco a Acton e la sua signora moglie, che per inciso era una droghiera molto prosperosa e carina, la feci sedere accanto alla mia. Poi li portai tutte e due alle corse nella mia carrozza. Lady Lyndon lottò con tutte le sue forze contro questa rinuncia ai nostri privilegi, ma io ci sapevo fare con lei, come si suol dire, e se lei aveva un brutto carattere, il mio era ancora peggiore. Un brutto carattere? Anche un gatto selvatico ha un caratteraccio, ma il suo guardiano riesce ad averne ragione e io conosco ben poche donne al mondo che non sarei capace di tenere a bada. Bene. Trattai con i guanti il sindaco e il consiglio comunale. Mandavo qualche cervo ai loro pranzi, li invitavo ai miei, avevo cura di partecipare a tutte le loro mondanità, di ballare con le loro mogli e figlie e, insomma, di compiere tutti quegli atti di cortesia che sono necessari in simili occasioni. E il vecchio Tiptoff, benché dovesse essere al corrente dei miei andirivieni, teneva la testa così ben cacciata tra le nuvole che non si abbassò neppure una volta, a immaginare che la sua dinastia potesse venire sopraffatta nel suo stesso borgo di Tippleton. E intanto emanava i suoi editti con fiducia granitica, come se lui fosse stato il Gran Turco e gli abitanti di Tippleton nulla più che un branco di schiavi ai suoi comandi. Fu nel 1776, quando scoppiò la guerra in America, che entrai in Parlamento. Milord Chatham, a cui il suo partito attribuiva a quei tempi una saggezza sovrumana, levò la sua voce di oracolo alla Camera dei Pari contro la repressione dei tumulti americani. E il mio compatriota, Mr. Burke, grande filosofo, ma oratore prolisso e noioso da morire, si fece paladino dei ribelli alla Camera dei Comuni, ma qui, grazie al patriottismo britannico, trovò pochissimi seguaci. Fin dallo scoppio delle ostilità, il nostro popolo aveva preso a odiare gli americani con tutto il cuore, e quando ci giunse notizia della battaglia di Lexington e della gloriosa vittoria di Bunker's Hill, così la chiamavamo all'epoca, tutta la nazione esplose in uno dei suoi periodici accessi di furia rabbiosa. Da allora l'opinione corrente fu tutta contro i filosofi e la gente diede prova di strenua fedeltà. Solo dopo che venne aumentata la tassa sui terreni, la borghesia cominciò a brontolare un po', ma giù, nell'ovest del paese, il mio partito era ancora molto forte contro i Tiptoff, e io decisi di scendere in campo e averla vinta come tante altre volte. Il vecchio marchese trascurò ogni minima precauzione che si richiede per una campagna elettorale, fece sapere al consiglio comunale e ai piccoli proprietari che intendeva candidare suo figlio Lord George e desiderava che fosse eletto a rappresentare il collegio, ma non offrì neanche un bicchiere di birra per stimolare la devozione dei suoi seguaci, mentre io, inutile dirlo, ingaggiai tutte le taverne di Tippleton in mio sostegno. Non occorre riportare in queste pagine l'ennesimo resoconto di un'elezione. Strappai il collegio di Tippleton dalle mani di Lord Tiptoff e di suo figlio Lord George. Provai anche una specie di selvaggia soddisfazione a costringere mia moglie, che anni prima era stata molto colpita dalle grazie di quel suo parente, come ho già raccontato, a scendere in campo contro di lui, fino a indossare e distribuire i miei colori quando venne il giorno dell'elezione. E quando ci fu il dibattito pubblico tra me e lui, io dissi alla folla che avevo battuto Lord George in amore, che l'avevo battuto anche in combattimento e che ora l'avrei battuto in Parlamento. E così feci, come i fatti poi dimostrarono. Con indicibile rabbia del vecchio marchese, il gentiluomo Barry Lyndon venne eletto rappresentante parlamentare di Tippleton al posto del gentiluomo John Rigby, recentemente deceduto. Minacciai Tiptoff di cacciarlo da tutti e due i suoi seggi alla prossima elezione. Dopodiché me ne andai a compiere i miei doveri in Parlamento. Fu allora che decisi fermamente di procurarmi un titolo di pari d'Irlanda, di cui potesse godere dopo di me il mio adorato figlio ed erede. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Riduzione di Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.